Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi e Radio 24, il pomeriggio di informazione Italia in controluce, il programma che indaga tutti i giorni sulla cronaca ma anche sulla politica, sul costume italiano. Oltre 11 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2007, quanto lo Stato potrebbe, dovrebbe incassare entro fine anno dalla lotta all'evasione fiscale. La previsione è di Luigi Magisto, che è direttore generale dell'accertamento all'Agenzia delle Entrate. Lo ha intervistato per Italia in controluce Valentina Furlanetto. Dottor Magistro, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a lei. Chi grazie ascolta. Per essere con noi. È vero che è anche un cercatore di funghi? Sì, sì, questo è vero, è un mio hobby che però purtroppo il lavoro mi consente di fare sempre con meno frequenza, ecco, mi piacerebbe molto. È lì che si allena per scovare le insidie e quello che avviene in questa Italia così pesantemente schiacciata da un'evasione fiscale così importante? Certo è un buon allenamento, perché alla fine cercare di dare una soluzione al problema dell'evasione fiscale nel nostro paese richiede veramente un impegno notevolissimo e anche un grosso sforzo ideativo, ecco, di quelle che possono essere le migliori misure da adottare anche dal punto di vista operativo. Ci vuole una strategia complessa e noi ci stiamo impegnando da diversi anni in questa strategia con discreti risultati. Di questa strategia fa parte anche la riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate che lei ha voluto. Sì, è sicuramente un punto molto importante. Tre anni fa abbiamo avviato una complessa riorganizzazione che si è completata quest'anno. I risultati dell'attività di controllo sono migliorati, direi sensibilmente, perché nell'arco di tre anni abbiamo quasi raddoppiato gli importi recuperati a seguito dell'attività di controllo, e quando parlo di recuperati mi fa piacere sottolineare che vuol dire incassati, non vuol dire accertati, quindi non è teoria ma è qualcosa di concreto. Nel 2007 l'Agenzia delle Entrate ha incassato dall'attività di contrasto all'evasione circa 6 miliardi di euro, nel 2010, l'anno scorso, ha incassato 10 miliardi e mezzo e quest'anno contiamo di superare anche la cifra dell'anno scorso, quindi in sostanza un quasi raddoppio che a mio avviso è frutto soprattutto della riorganizzazione, oltre che insomma di un impegno sicuramente aumentato da parte di tutti i colleghi che nell'Agenzia delle Entrate contribuiscono a questo importante obiettivo. 6 miliardi nel 2007, che quest'anno 2011 dovrebbero arrivare a 11 miliardi. Io spero di superare gli 11 miliardi. Come funziona il nuovo redditometro? La principale finalità del nuovo redditometro è quella di fare una forte dissuasione per quanto riguarda l'evasione delle imposte sui redditi. È uno strumento molto articolato, lo stiamo proprio completando in questi giorni, è stata un'operazione molto molto complessa. Il nuovo redditometro consentirà di stimare quello che è il reddito di ciascun contribuente in funzione di una vastissima serie di indicatori che consistono essenzialmente in spese, parliamo di oltre 100 voci di spesa, sulla base delle quali si fa una stima di quello che è il reddito plausibile del contribuente e, confrontandolo con quello dichiarato, viene fuori una possibile evasione. Lo useremo soprattutto per selezionare in modo molto mirato i nostri controlli e quindi chi sarà starato, soprattutto chi sarà molto starato rispetto alle stime del nuovo redditometro, sarà sicuramente raggiunto da un controllo dell'Agenzia delle Entrate che potrà essere effettuato con le varie modalità che oggi adottiamo nelle nostre attività operative. Non più solo controlli per quanto riguarda riguarda l'acquisto di auto, il di lusso, di yacht, ma anche le spese dei contribuenti che riguardano l'iscrizione a club, palestre esclusive, anche le scuole private dei figli, è così? Sì. Sì, le possiamo controllare anche perché disponiamo oggi di strumenti che ci fanno arrivare quelli che sono i dati su queste spese. Mi riferisco al cosiddetto spesometro, quindi il flusso di dati relativi a tutti gli acquisti di qualsiasi genere effettuati d'importo superiore ai 3.000 euro, quindi parliamo di spese significative. Secondo lei ha senso la dichiarazione dei redditi online? Avrebbero più valore per voi o avete strumenti sufficienti? Con quel tipo di strumento si punta a generare quasi un controllo reciproco, no? A livello generale. Francamente io sono convinto che il controllo lo deve fare il fisco, non lo deve fare il vicino di casa. L'idea del carcere per gli evasori ha un senso, almeno come misura di deterrente? La sanzione penale ha una indubbia efficacia, insomma, questo in generale, e in materia fiscale l'ha in tanti altri paesi del mondo. Nel nostro paese esistono da tempo sanzioni penali, la recente riforma, questa che sta adesso approdando appunto alla conclusione dell'iter parlamentare, abbassando le soglie di punibilità, a mio avviso amplia l'effetto dissuasivo che può avere una sanzione penale. La minaccia della sanzione penale è sicuramente molto incisiva. Ha fatto molto scalpore venire a conoscenza, almeno per l'opinione pubblica, che del condono fiscale, parlo quello del 2003, ancora 4 miliardi di euro risultavano non versati da chi si era approcciato il condono perché non aveva pagato le rate successive. E il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Beffer, ha detto che una parte di questi sono inesigibili perché le persone sono o fuggite o fallite. Guardi, il problema della riscossione coattiva, forzata, è un grosso problema. Il 1 ottobre entrerà in vigore, con tanta fatica, dopo lo slittamento, il cosiddetto accertamento esecutivo, che sarà la molla che porterà sicuramente a una riscossione coattiva molto molto più efficace, perché accorcia il tempo che passa tra il momento in cui viene effettuato appunto l'accertamento e viene richiesto il pagamento di ciò che si è evaso e il momento in cui scatta proprio l'azione esecutiva e quindi l'esecuzione forzata nei confronti di chi non paga spontaneamente. Per chiudere, dottor Magistro, è stato per quasi 25 anni alla Guardia di Finanza, ma prima ancora per un decennio il braccio destro di Gherardo Colombo, quindi alla Procura di Milano, e fu anche sua l'intuizione che portò poi a frugare nell'azienda di Licio Gelli, dove spuntarono le liste della P2. Questa solida esperienza investigativa quanto l'ha aiutata nel suo lavoro attuale? Direi moltissimo. Quelle esperienze fatte nella Guardia di Finanza a livello investigativo e anche a livello di controllo fiscale sono state una palestra davvero unica, che hanno fatto maturare un'esperienza che cerco ora di mettere a frutto. Spero di proseguire in questo cammino ottenendo i migliori risultati possibili nell'interesse della collettività, che è quello che da più di 30 anni mi sta molto a cuore. Per chiudere, a lei mi è capitato di non ricevere lo scontrino fiscale o una ricevuta? A me è capitato e ovviamente ho preso i provvedimenti del caso. Se facessero altrettanto tanti cittadini, potrebbe essere un aiuto anche per fare in modo che le cattive abitudini vadano regredendo. Italia in controluce, seconda edizione, siamo implacabili su Facebook, pagine gruppo dove potete trovare i nostri programmi, i nostri temi aggiornati ogni giorno, siamo su Twitter e rintracciabili via mail controluceradio24.it. Vi ricordo che tutti i giorni alle 6.30 all'interno della nuova fascia di informazione in diretta trovate la pillola di Italia in controluce legata ai temi di strettissima attualità.